Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Una tentata rapina con un camion in fiamme in mezzo all'autostrada del Sole, traffico in tilt, carreggiata cosparsa di chiodi e banditi in fuga. Renzi sull'evasione, stangare chi viola le regole, ma più semplicità per il fisco. Dall'anno prossimo, spiega Padoan, l'Agenzia delle Entrate segnalerà le incongruenze ai contribuenti. Il petrolio tocca i minimi da 4 anni. Oggi l'OPEC si riunisce per discutere un taglio della produzione. Venezuela a favore, sauditi contrari. Il governo prepara una nuova legge per il contrasto al terrorismo internazionale, dice Alfano. Tra poco ospiteremo il sottosegretario con delega ai servizi, Minniti. Altre 2 espulsioni in arrivo nel Movimento 5 Stelle. Scattano le procedure per Paola Pinna e Massimo Artini. Al centro il presunto mancato taglio dello stipendio. Dopo la vittoria dello Juventus, stasera in campo gli italiani di Europa League. Giocatori della Roma intanto sotto accusa per la serata allo Strip Club dopo la partita contro il CSKA Mosca. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, come sempre i contatti sono effettogiorno@radio24.it per scriverci un'email, c'è la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno e poi durante la trasmissione il numero di sms 349-238-6666. Iniziamo dalla cronaca che ci porta sull'autostrada del Sole, dove questa mattina si è svolto un assalto ad un furgone portavalori, sentiamo il racconto. Camion in fiamme, chiodi sul selciato, 2 posti di blocco, uno sulla provinciale e l'altro in autostrada. Così è stato preparato il colpo ad un furgone portavalori che questa mattina ha mandato il tilt il traffico sulla 1, all'altezza del casello di Lodi. Ad entrare in azione intorno alle 6.40 un commando di una ventina di uomini armati che, fallito il tentativo di rapina, si è poi dato alla fuga. La banda ha seminato chiodi sulla carreggiata, poi ha dato fuoco a 2 autocarri e a una macchina e li ha messi di traverso per bloccare il furgone, che però è riuscito ad evitare l'assalto. Solo i 2 mezzi della scorta sono rimasti bloccati. A quel punto i rapinatori sono fuggiti su alcune auto sfruttando un varco nella recinzione. Gli investigatori sono al lavoro per analizzare le immagini della società Autostrade. A Graffignana, sempre nel Lodigiano, hanno abbandonato i mezzi. Poco più avanti hanno fermato e costretto una donna a lasciare loro l'auto facendo perdere le proprie tracce. Il blocco sulla 1 in realtà era il secondo organizzato dai rapinatori, il primo sulla provinciale, un furgone e 2 auto in fiamme, si è rivelato inutile perché il portavalori ha cambiato strada. 2 percorsi possibili, 2 piani identici, falliti entrambi. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E prima di passare alla legge di stabilità, al tema dell'evasione fiscale del quale ha parlato Renzi, noi restiamo sulla cronaca perché ancora una donna, ancora oggi vittima del suo uomo, a 22 anni, al culmine di una lite, è stata uccisa da un colpo di fucile. A soltanto 24 ore dalla giornata contro la violenza sulle donne, ieri a Roma un nuovo caso di femminicidio. Una ragazza dei 22 anni è stata ferita alla nuca dal suo compagno con un fucile dalla matrice a brasa. Il fatto è accaduto intorno alle 21.30 di ieri sera in un appartamento di Sacrofano, comune alle porte della capitale. Trasportata al Policlinico Sant'Andrea in condizioni disperate, la giovane è stata sottoposta e notata a un delicato intervento chirurgico, ma non ce l'ha fatta e stamani è deceduta. Il compagno della donna di 42 anni era stato subito arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio, ma ora la sua posizione si aggrava. Ancora tutti da chiarire i motivi del gesto, anche se si ipotizza che il ferimento sia avvenuto al culmine di una lite tra i 2, entrambi di nazionalità italiana. Ad indagare sul caso i carabinieri di Bracciano. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Veniamo alle vicende di politica economica italiana. In una giornata nella quale sono andate bene anche le aste di titoli di Stato, il Tesoro ha venduto tutti i 7 miliardi complessivi di BTP e CCT indicizzati all'Euribor, appunto in asta, con tassi ai minimi record sui BTP a 5 anni 0,94% e 10 anni 2,08%. In una giornata complessivamente positiva per i mercati finanziari, il FTSE MIB guadagna lo 0,4%, il FTSE All Share altrettanto. Ne parleremo come sempre nell'appuntamento di borsa alle 13.30. Legge di stabilità, si diceva, dopo il passaggio di ieri in commissione approda in aula, ci sono molte novità già arrivate. Questa mattina ha parlato anche di evasione fiscale il Presidente del Consiglio Renzi. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. Servono norme più semplici, serve stanare chi viola le norme perché il tempo dei furbi è finito. Questa è in sintesi la ricetta di Matteo Renzi, la strategia da adottare per combattere l'illegalità e l'evasione fiscale, ma anche per avvicinare i cittadini onesti a quello che il Premier definisce il grande mondo della pubblica amministrazione. Tutto questo Renzi lo ha detto davanti ad una platea particolarmente interessata perché era all'inaugurazione dell'anno accademico della scuola di polizia tributaria della Guardia di Finanza a Ostia. Sentiamo un passaggio. L'idea che si debba investire nel rapporto col cittadino, suscitando un approccio per il quale il cittadino si sente in qualche modo quasi moralmente accompagnato a fare ciò che deve fare, e contemporaneamente il pubblico non è il controllore, è innanzitutto il consulente, che poi diventa controllore perché se sbaglia è la volta buona in cui ti castigo, e ti castigo per il verso giusto. Presente anche il ministro dell'economia Padoan, il quale ha annunciato che nella legge di stabilità ci sono interventi di contrasto all'evasione per circa 3,4 miliardi di euro per il 2015, dunque risorse aggiuntive rispetto a quelle previste per il 2014, ma la lotta all'evasione con la legge di stabilità sarà potenziata anche grazie al pieno utilizzo da parte dell'Agenzia delle Entrate delle banche dati a disposizione, senza più la necessità di far riferimento a liste selezionate dei contribuenti ritenute più a rischio. Questa è una delle novità dell'ultima ora. Altre novità riguardano il tetto alle pensioni d'oro e la detrazione per i politici che versano gran parte dei compensi al partito. Ricordiamo che nella notte è arrivato il via libera dalla Commissione Bilancio della Camera alla legge di stabilità. L'Aula comincerà ad occuparsene domani mattina e non più da oggi come inizialmente previsto. Nel fine settimana il voto di fiducia, in realtà saranno tre le fiducie perché il testo è stato diviso in tre maxi emendamenti, poi il via libera finale, poi un altro passaggio al Senato e l'approvazione definitiva entro Natale. Da Roma è tutto. E grazie ad Alessandra Schepisi, che già accennava al tema del pieno accesso da parte dell'Agenzia delle Entrate alle banche dati dei contribuenti. Oggi lo stesso Padoan vi si sofferma dicendo che a partire dai primi mesi dell'anno l'Agenzia segnalerà ai contribuenti eventuali incongruenze emerse dal raffronto delle banche dati, in modo che gli stessi contribuenti possano fare le loro verifiche ancor prima di presentare la dichiarazione dei redditi. Ci colleghiamo con Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Gianni, buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, abbiamo un audio pessimo con te, quindi proviamo a richiamarti e recuperarti tra un attimo. Restiamo però sui temi di politica economica e sulla riforma del mercato del lavoro. Potrebbero esserci problemi per il Partito Democratico al Senato. Il sottosegretario al lavoro Teresa Bellanova smentisce, mentre il ministro del lavoro Giuliano Poletti, intervenuto a Mix 24, parla di possibili interventi per quanto riguarda le partite IVA. Sentiamo. Noi stiamo lavorando su questo versante per fare due operazioni. Da una parte, connessa anche al lavoro che stiamo facendo di nuova regolazione per cercare di limitare quel fenomeno sbagliato che è quello delle false partite IVA, che sono dei lavori dipendenti camuffati. Poi stiamo lavorando invece sul tema delle tutele per quello che sono le vere partite IVA, cercando anche di introdurre qualche elemento di novità che fa riferimento ad esempio ad un tema molto pesante per le partite IVA, che è il mancato pagamento da parte dei clienti. Se un cliente non ti paga, con i meccanismi della giustizia lenta che abbiamo in questo paese, abbiamo un grande problema. Ecco, stiamo verificando la possibilità di avere un meccanismo di tutela su questo fronte. Ecco. Continuiamo a parlare di politica. Alfano dice che la Lega è un partito di estrema destra. Cazzate sono le parole testuali del presidente lombardo Roberto Maroni, che replica così su Twitter al leader del nuovo centrodestra. Alla Lega, aggiunge Maroni, è un partito di successo con idee concrete e uomini liberi e capaci. Intanto si apprende che ammonta a 40 milioni di euro la somma complessiva che, secondo le informazioni ottenute da Mediapart, i responsabili del Fronte Nazionale, il partito guidato da Marine Le Pen, riceveranno in prestito da Mosca. I 9 milioni dei quali si era parlato nei giorni scorsi, ottenuti in prestito dalla First Czech Russian Bank, di proprietà di Roman Popov, un oligarca molto vicino al Cremlino, non sono che la prima tranche, ha confermato un alto responsabile del Fronte Nazionale. Il deputato europeo Jean-Luc Schaffhauser riconosce di essere stato retribuito con 140.000 euro per il suo ruolo di mediatore nell'affare. Abbiamo parlato dei problemi del PD per la riforma del mercato del lavoro e però c'è anche un caso politico giudiziario che scuote il partito. Sentiamo. Ucciso e non fuggito volontariamente. Prende corpo l'ipotesi dell'omicidio per spiegare la scomparsa di Alfredo Guagnelli, ex braccio destro del senatore PD Marco Di Stefano, entrambi indagati per corruzione. Di Guagnelli si sono perse le tracce 5 anni fa. Si è pensato a una fuga volontaria, ma adesso il procuratore di Roma Giuseppe Pignatone ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio e ha affiancato a questo procedimento quello per corruzione, segno che due fatti potrebbero essere legati. Di Stefano, ex poliziotto temuto dai suoi colleghi di partito perché ritenuto in contatto con i servizi segreti e in possesso di dossier sui suoi nemici politici, è sospettato di aver intascato, assieme al suo amico Guagnelli, 1.800.000 euro da due costruttori, Antonio e Daniele Pulcini. Di Stefano in quel momento era assessore al patrimonio della Regione Lazio. Poco tempo dopo, l'8 ottobre 2009, il suo amico scompare, non rientra a casa e non dà notizie di sé. Prima di sparire però incontra Di Stefano sotto la sede della Regione Lazio. Si ipotizza la fuga volontaria, si pensa anche a un sequestro di persona. Ma adesso la storia ha preso un'altra piega e si indaga per omicidio. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo è il quadro sul caso Di Stefano, che continueremo a seguire naturalmente. L'abbiamo sentito prima al telefono, adesso ci ha raggiunto in studio, visto che il collegamento non era buono. Gianni Trovati, del Sole 24 Ore, eccoci. Ribuongiorno. Ribuongiorno. Parliamo di questa vicenda delle banche dati alle quali l'Agenzia delle Entrate avrà accesso. Naturalmente il timore di molti contribuenti a questo punto è che i controlli possano essere eccessivamente puntuti, per così dire. Beh, il timore è del tutto comprensibile, diciamo, la differenza è prima si poteva, cioè con le norme attuali si possono usare gli accessi bancari e appunto questo tipo di controlli per compilare liste selettive dei contribuenti, vale a dire si individuano i contribuenti più a rischio evasione, o meglio a rischio di un'evasione più importante dal punto di vista economico da sottoporre ai controlli tradizionali. Con le nuove norme i controlli saranno più puntuali, la premessa sostenuta per esempio dal sottosegretario all'economia Zanetti è: visto che abbiamo la disponibilità tecnologica di fare questo tipo di controlli puntuali sui conti correnti, non c'è ragione per non farli. Ora, naturalmente, come dire, non corriamo all'idea del Grande Fratello, eccetera, però non ci manca molto, nel senso che naturalmente la possibilità tecnologica di un controllo su tutto, su tutti, l'anagrafe tributaria, anche per esempio per gli ISEE che dall'anno prossimo cambiano le regole e che saranno parametrati anche sulla base della giacenza media del conto corrente, incrociare questi dati per l'amministrazione finanziaria è fondamentale e anche facile. Ci saranno in via applicativa da definire bene parametri di privacy, da chi può accedere a questo tipo di informazioni e così via. E poi c'è da ricordarsi anche un'altra cosa: all'Agenzia delle Entrate, al fisco, non interessa guardare tutto, raccogliere tutto il raccoglibile, diciamo così, perché non è economicamente vantaggioso, cioè date le risorse che il fisco ha per fare la lotta all'evasione fiscale, per ottimizzare il risultato la strategia è sempre quella di concentrarsi sui contribuenti che hanno un'evasione, diciamo così, pro capite più alta, perché tu aumenti, e questo dà le maggiori garanzie. Però ci vogliono regole chiare su chi è titolato a accedere a queste informazioni e sulle modalità applicative di questa norma. Allora, io ti ringrazio intanto. Grazie. Gianni Trovati, andremo a capire come andrà a finire. Intanto noi parliamo di petrolio, perché oggi si sono toccati i minimi da 4 anni. In questo momento il Brent con consegna a gennaio c'è del 2,21% con un prezzo a $76,03 al barile. Il WTI, il 2,05, perde a $72,25 al barile. È in corso la riunione dell'OPEC ed è per questo che oggi il petrolio cede particolarmente terreno, e c'è a Vienna a seguirla Sissi Bellomo, inviata del Sole 24 Ore. Allora Sissi, con che quadro si apre questa riunione? Sì, buongiorno. Il quadro è quello che effettivamente riflette il mercato. Il petrolio sta perdendo più del 2% in questo momento e questo è chiaro segno delle aspettative che ci sono da parte degli analisti, degli investitori. Tutti si aspettano che l'OPEC non riesca a fare nulla per arrestare la caduta dei prezzi, che non ci sarà un taglio della produzione, non un taglio del tetto ufficiale. D'altronde le dichiarazioni che c'erano state già ieri lasciavano intendere che questo sarebbe stato il risultato, un risultato minimo. Il ministro del petrolio saudita, Ali Al-Naimi, che è il più potente dei ministri dell'OPEC, perché l'Arabia Saudita è il produttore più importante, quello che può manovrare meglio la produzione, aveva detto ieri che il mercato finirà con lo stabilizzarsi, come dire, lasciamo fare al mercato, e se lasciamo fare al mercato c'è un eccesso di produzione che nessuno può più negare e i prezzi quindi sono condannati a scendere. C'è molto malumore qua, molti ministri pensano che in realtà bisognerebbe fare qualcosa, che bisognerebbe tagliare, però non è detto, e il mercato sembra non crederlo, non è detto che si riesca ad arrivare a un consenso su questo tipo di azioni. Intanto il saudita ha deciso di mettere sul muso in qualche modo, non ha più parlato con nessuno, scaccia i giornalisti, sembra essere arrabbiato. Va bene, quindi vedremo che cosa succederà da questa riunione OPEC. Io intanto ti ringrazio, Sissi Bellomo, e prima di andare al traffico c'è qua in studio con noi Giovanni Capuano per fare un punto sulle partite di Europa League in arrivo. Giovanni, eccoci. Sì, questa sera si gioca l'Europa League, usciamo da un mercoledì particolarmente positivo, un mercoledì che ci ha restituito la Juventus laddove pensavamo dovesse trovarsi, cioè a un passettino dalla qualificazione agli ottavi di finale. Da registrare questa mattina sui giornali svedesi grandi polemiche per l'arbitraggio del portoghese Proenza, che in realtà non ha fatto grandi errori, non ha fatto grandi danni ieri sera, ma tifosi e stampa svedese ritengono che sia lui il responsabile del 2-0 con cui la Juventus ha vinto a Malmo. Questa sera l'Europa League, 4 le partite che sono in programma, 2 alle 19, Sparta-Praga-Napoli e Ghingam-Fiorentina, ricordiamo che la Fiorentina è già qualificata per i sedicesimi di finale, e poi alle 21 ci sono le due partite forse più interessanti, Inter-Dnipro e Torino-Bruges, Torino che deve assolutamente vincere per non rendere più complicato il suo cammino nel girone. L'Inter festeggia i 50 anni di Mancini, anche se in realtà Mancini non sarà in panchina perché deve scontare una vecchia squalifica e dunque dovrà essere in tribuna. Comunque sia Napoli che Inter che Torino hanno oggi la vera occasione per fare un passo deciso verso la qualificazione. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Un camion in fiamme per un'attentata rapina sull'Autosole, si cercano tra gli 8 e i 9 banditi. Renzi sull'evasione, stangare chi viola le regole, ma più semplicità per il fisco. Il petrolio tocca i minimi da 4 anni, oggi l'OPEC si riunisce per discutere un taglio della produzione. Il governo prepara una nuova legge per il contrasto al terrorismo internazionale, dice il ministro dell'interno Angelino Alfano. Altre due espulsioni in arrivo nel Movimento 5 Stelle, scattano le procedure per Paola Pin e Massimo Artini. Saluto Marco Minniti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega ai servizi e all'intelligence. Minniti, benvenuto. Buongiorno. A tutti voi. Vogliamo partire proprio dal tema del terrorismo internazionale. Oggi le notizie ci raccontano ancora una volta di ISIS, oggi ci arrivano dalla Libia, dove le milizie jihadiste che controllano Derna nell'est del paese stanno, a quanto pare, secondo quanto riferisce Human Rights Watch, terrorizzando gli abitanti delle città con esecuzioni sommarie, fustigazioni pubbliche e altre violenze. Ma naturalmente con lei vogliamo parlare invece di quello che ISIS potrebbe fare in Occidente, in Italia in particolare. Corriamo rischi, Minniti? È evidente che la guardia era e sarà alta, perché abbiamo di fronte un nemico che ha lanciato nei confronti del complesso dell'umanità una sfida drammatica e in qualche modo irriducibile. Ed è tutto evidente che nel momento in cui sviluppiamo al massimo la capacità di prevenzione e di contrasto, dobbiamo tuttavia avere un equilibrio, e cioè non cadere nella sindrome della paura, perché noi sappiamo che uno degli obiettivi delle organizzazioni terroristiche è quella di produrre nelle comunità democratiche la sindrome della paura. Dobbiamo cioè insieme tenere la guardia molto alta, sviluppare al massimo tutte quante le capacità che noi abbiamo, che sono capacità che devono saper leggere anche nel dettaglio di quello che avviene, e contemporaneamente non accettare la sfida della paura, non essere battuti sul terreno della sfida della paura. Oggi il ministro Alfano parla della necessità di una nuova legge per il contrasto del terrorismo internazionale. In effetti, questo è un tema che noi abbiamo affrontato spesso anche in questa trasmissione. Abbiamo assistito a una nuova modalità di azione, se vogliamo, no? Non più un attentato preparato e quindi forse facilmente prevedibile per certi aspetti, per un'intelligence appunto ben preparata, ma il cane sciolto che colpisce, come per esempio è avvenuto in Canada. Da questo punto di vista servono nuovi strumenti normativi oppure no, Minniti? Ma innanzitutto noi stiamo già lavorando a legislazione vigente, nel senso che noi abbiamo abbastanza chiaro, se mi è consentito, ce l'avevamo anche chiaro da un po' di tempo, quali erano le caratteristiche del nemico che abbiamo di fronte. Noi abbiamo un'organizzazione, ISIS, adesso si chiama più comunicante IS, cioè nel senso Stato Islamico, per segnalare anche il fatto che lo Stato Islamico non ha un confine territoriale delimitato come poteva essere l'Iraq e il Levante, e che ha insieme una doppia capacità, una capacità di una iniziativa propriamente simmetrica, che è quello di fare la guerra, come comunemente viene intesa, questo è quello che è avvenuto in Siria, in cui IS ha preso il controllo di una parte significativa della Siria, è quello che è avvenuto e sta avvenendo in Iraq, dove ha preso il controllo di circa un terzo dell'Iraq, è quello che avviene anche in alcune realtà, come le citava prima, di altri paesi, come per esempio la Libia, citava il caso di Derna. Ha questa capacità simmetrica, che è tipica, diciamo, della guerra. C'è una capacità asimmetrica che è appunto tipica delle organizzazioni terroristiche, non era mai avvenuto prima che un'organizzazione tenesse insieme tutte e due le cose. E da questo punto di vista noi abbiamo di fronte quindi una capacità di colpire che è sicuramente notevole, che avviene attraverso due modalità fondamentali. La prima è quella di poter utilizzare in futuro, di poter utilizzare anche adesso i cosiddetti foreign fighters, cioè coloro che stanno combattendo in questo momento, che hanno combattuto in questo momento nel teatro siriano e nel teatro iracheno, che sono europei, che provengono dall'Europa, e quindi che in Europa potrebbero tornare, questo è un fronte di preoccupazione. Quindi da questo punto di vista non è semplicissimo la possibilità di poterli, tra virgolette, individuare, perché sono cittadini europei, sono col passaporto europeo per intenderci. Il secondo livello è quello appunto di utilizzare... Ma esattamente gli italiani quanti sono, Minniti, da quel che vi risulta? Ma guardi, insomma, gli italiani sono la componente più piccola della componente europea. Ora, naturalmente, su questo... E dare numeri precisi significa esporsi naturalmente al fatto che poi quel numero può essere smentito. Naturalmente la cosa che si può dire è questa, che noi abbiamo una certa capacità di controllo della situazione, che i numeri italiani sono più piccoli rispetto a numeri di altri paesi europei, così come da essi stessi dichiarati, e che naturalmente, e ritorniamo al tema della prevenzione, tutto questo comporta, appunto perché i foreign fighters sono europei, appunto perché noi abbiamo in Europa la libera circolazione degli uomini e delle merci, abbiamo bisogno che la strategia non soltanto di contrasto, non soltanto sia una strategia a livello nazionale, ma sia il più possibile coordinata a livello europeo. Noi abbiamo bisogno di misure che rendono adeguate il contrasto di un singolo paese dentro tuttavia una dinamica europea, perché oggi l'Europa rispetto al terrorismo o si difende insieme o più difficile che possa essere difesa. Da questo punto di vista c'è il tema di come coniugare, diciamo, iniziative immediate come per esempio quello del controllo, diciamo, delle liste dei passeggeri, che è una questione antica in Europa, con tutti i temi relativi alla tutela della privacy. È possibile avere un equilibrio giusto tra questi due temi, sapendo che dobbiamo sviluppare potenzialità comuni. Infine, se mi è consentito, sì. Noi abbiamo in Italia uno strumento che io considero un piccolo gioiellino. Lo strumento è il Centro Antiterrorismo, diciamo, che si chiama CASA, diciamo, l'acronimo è CASA, diciamo, che tiene insieme le forze di polizia e tutte quante le forze dell'intelligence. Noi abbiamo un collegamento in tempo reale, tutte le informazioni che c'ha l'intelligence vengono immediatamente riversate alle forze di polizia, tutte le informazioni che c'hanno le forze di polizia vengono immediatamente riversate all'intelligence. e questo è uno strumento fondamentale. Io sogno e mi batto perché ci sia un caso europeo. Io so bene che quando parliamo di intelligence parliamo del cuore dello Stato nazionale. E tuttavia, di fronte alla sfida che il terrorismo islamico pone, diciamo, noi dobbiamo essere capaci di fare un passo avanti, cioè mettere di più in comune quelle che sono le nostre conoscenze, le nostre informazioni. L'abbiamo fatto e dobbiamo farlo ancora di più. In 20 secondi, serve dunque un nuovo strumento normativo, al di là del coordinamento europeo, che sappiamo che è un po' più complesso, serve un nuovo strumento normativo, come dice Alfano? Il Ministro dell'Interno ha predisposto delle misure, ne abbiamo anche parlato, naturalmente quelle misure vanno nella giusta direzione, servono ad aumentare ancora di più la capacità di prevenzione e di contrasto, sapendo tuttavia che un paese come il nostro ha bisogno di migliorarsi, ma anche oggi tutti quanti gli strumenti per poter avere un'attenzione particolare, una guardia sufficientemente sicura nel contrasto a queste nuove forme di terrorismo internazionale. Brevemente l'ultimo punto sulle questioni interne. Un paese, lo abbiamo visto anche nelle settimane scorse, che è attraversato per ovvi motivi, insomma, anche a causa della crisi economica, da una serie di tensioni sociali. Ci sono stati vari episodi, ci sono stati scontri, ci sono state le minacce al responsabile economico del Partito Democratico, Filippo Taddei, tanto per fare due esempi. Temete che tutto questo possa sfociare in forme di eversione vera e propria? Ma guardi, noi abbiamo una presenza, diciamo, tra virgolette, di organizzazioni eversive nel nostro paese che hanno già agito con attentati, la rivendicazione di questi attentati, che per fortuna in molti casi non si sono mai rivelati attentati particolarmente drammatici. E tuttavia in questo momento c'è un punto cruciale, che è cruciale in ogni democrazia. Ogni democrazia deve essere capace di saper distinguere anche le forme più radicali, più nette di dissenso, di contrarietà, che naturalmente non soltanto devono essere consentite, ma devono essere in qualche modo garantite, sapendo che tuttavia c'è un limite oltre il quale non si può andare, è il limite della violenza. Io penso che sia interesse della democrazia, interesse degli apparati dello Stato, interesse di coloro che sono oggi protagonisti delle forme più radicali di protesta, e che quelle forme più radicali di protesta non abbiano nulla a condividere con la violenza, perché quello è il punto cruciale dentro il quale si gioca il futuro di una forte e radicata democrazia. Sì, ma questo rischio lo intravedete, che ci sia una deriva di questo tipo o no? Ma guardi, io non penso che in questo momento noi abbiamo una deriva, diciamo, di una ripresa di un nuovo terrorismo interno, diciamo. Naturalmente tutto questo comporta, diciamo, prestare la massima attenzione anche su questi fenomeni, perché nel momento in cui si prende la deriva della violenza, noi sappiamo perfettamente che ci può essere uno slittamento progressivo. D'altro canto, la storia del nostro paese ci ha insegnato a guardare con grande attenzione, con grande preoccupazione ai fenomeni di slittamento progressivo. Grazie a Marco Minniti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega all'intelligence. Ci fermiamo, c'è la borsa, poi ci ritroviamo e poi parleremo anche della Calabria, dove è stata eletto, sapete quante consigliere donne sono state elette? Una. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Saluto Ernesto Magorno, che è deputato e anche segretario regionale del Partito Democratico in Calabria. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. L'abbiamo chiamata per questo motivo. Come sapete, come i nostri ascoltatori sanno, ne abbiamo ampiamente parlato. C'è stata ci sono state le elezioni in Calabria. Mario Oliverio ha vinto. Succede però che a fare i conti ci si accorge che se nella precedente legislatura i consiglieri regionali donna erano zero, in questa legislatura è solamente uno. Mi spiega Magorno, visto che voi solitamente siete quelli un po' più attenti a questo, visto che teoricamente nello statuto è previsto che il 40% sia donna all'interno delle liste, come è stata possibile una cosa di questo genere? Sì, abbiamo fatto un piccolissimo passo avanti che non è esaustivo e certamente ci mancherebbe altro, diventa un monito che ci fa capire che in Calabria, così come in altre regioni, per esempio in Emilia Romagna, ne parlavo proprio alcuni minuti fa con il nuovo presidente della regione, va immediatamente modificata la legge elettorale prevedendo la parità di genere. Credo che questo è il primo punto che bisognerà discutere per dare un segnale anche rispetto alla mancanza delle donne in consiglio regionale. Sì, mi scusi, però mi sembra di capire, allora noi possiamo mettere tutte le leggi che vuole, possiamo mettere la doppia preferenza come c'è stato in Emilia Romagna, per carità, però evidentemente c'è un problema strutturale, perché una sola donna in un consiglio regionale è veramente poco. Beh, assolutamente sì, insomma, è un problema strutturale, è un problema culturale. Io provengo da una famiglia in cui il protagonista della vita politica familiare era una donna, mia madre, quindi so quanto è importante la presenza femminile nella vita politica e nella vita istituzionale dei territori, delle città e di una regione difficile come la nostra, che paga anche una cultura, che una non cultura, una cultura tra virgolette, di tenere fuori dalla vita attiva le donne. E la battaglia è più difficile nel mezzogiorno del nostro paese, dove la cultura al maschile purtroppo è molto più forte, è radicata, è quasi nel DNA anche della politica. Quindi credo che questa battaglia va fatta, dobbiamo riconoscere che su questo registriamo una sconfitta, che da questo momento in avanti, ora che governiamo noi la regione Calabria, bisogna porre rimedio anzitutto modificando la legge elettorale. Senta Magorno, modifica della legge elettorale, ma magari, visto che avrà voce in capitolo anche lei, immagino qualcosa dal punto di vista della giunta, magari un po' più di equilibrio, insomma, anche se non ci mettete dentro i consiglieri regionali e ci mettete delle esterne, magari potreste mettere più donne in giunta. Lo ha già dichiarato il presidente, che terrà conto della presenza femminile, però guardi, il punto non è questo. La battaglia non si vince perché si impone una donna in più o in meno in una giunta regionale. La battaglia si vince se ci crediamo e tutti insieme lavoriamo perché le donne in Calabria abbiano il loro ruolo, abbiano il loro giusto ruolo. Abbiamo delle parlamentari intelligenti nel Partito Democratico Calabrese, la Covello, la Bossio, la Lo Moro, abbiamo anche in altre formazioni politiche, quindi mi pare che quando insomma decidono più i partiti, per assurdo, si riesce ad avere la presenza femminile. Ora bisogna fare una battaglia che riconosco va fatta, va sostenuta e nella quale dobbiamo credere tutti in Calabria, nel Partito Democratico. Grazie Ernesto Magorno, deputato e segretario regionale del PD calabrese. Allora, innanzitutto una notizia che riguarda Genova, perché occhio, non vi abbiamo dimenticati. La Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo stato di allerta 2 con rischio idrogeologico dalle 21 di questa sera alle 18 di domani. E ancora una volta, anche domani saranno chiusi tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Quindi aggravamento del quadro meteo per la giornata di oggi, alta probabilità di temporali forti e persistenti, rischi che arrivano anche dalle condizioni del vento. Naturalmente domani torneremo ad aggiornarvi, insomma, su quello che è successo, sperando veramente che non succeda nulla di quello che abbiamo visto nell'ultimo mese. Prima di chiudere, ancora due cose un po' più leggere. Innanzitutto abbiamo parlato di calcio, ma si discute anche di quello che è successo alla Roma. La Roma, che dopo quell'1 pari contro il CSKA, almeno un po' di giocatori hanno fatto una gita in uno strip club. La notte è piccola per noi, troppo piccolina, c'è poco tempo per ballare e per cantare. Eh no, non sempre la notte è piccola, almeno questa volta non lo è stata per i giocatori della Roma, che dopo il deludente pareggio col CSKA hanno pensato, per consolarsi, di chiudere la serata in bellezza, nel senso letterale del termine, andando cioè in un noto locale di striptease di Mosca, proprio davanti al Cremlino. Nulla di peccaminoso, per carità, cose quasi da educande visto quello che ormai va per la maggiore, ma tanto è bastato per scatenare la curiosità del web e l'ira dei tifosi già poco soddisfatti del risultato. E vai poi a spiegare che questo è gossip, che il capitan Totti non è nemmeno entrato, che è stata solo una goliardata. Il mondo del calcio è spietato, soprattutto quando le braghe, anche solo per distrazione, si calano in campo. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Se sei a terra, non strisciare mai. Se ti diranno sei finito, non ci credere.